in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potrete immaginare, la maggior parte dei titoli sono dedicati alla Grecia, anche se oggi e probabilmente anche domani saranno le giornate in cui forse veramente ci sarà l'accordo, e quindi cominciamo dal Sole 24 Ore che titola: le borse scommettono sul sì. Il sì, l'accordo, appunto il sì finalmente a questo accordo che poi sapete è molto simile a quello prima del referendum, però forse è semplicemente molto più chiaro, e adesso la situazione è forse il referendum ha dato la spinta perché questo accordo, con tutte le misure che vanno, come avete sentito nei GR anche qui a Radio 24 negli approfondimenti, vanno naturalmente all'innalzamento delle tasse, l'IVA che sapete in Grecia è molto più bassa che da noi, l'innalzamento dell'età pensionabile e moltissime altre riforme. Tantissimi gli approfondimenti, perché poi ieri ci sono state tante notizie economiche, sapete che continua anche la crisi delle borse, o meglio ci sono sviluppi sull'andamento delle borse cinesi che erano crollate, ieri invece per il secondo giorno sono rimbalzate, quindi c'è stato un più 5% della borsa di Shanghai, e poi soprattutto c'è stato un altro balzo importante per noi in Italia che è quello della produzione, più 3%. E allora gli approfondimenti e poi anche un commento di Paolo Bricco, segnali non è ancora svolta. E poi dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo, per quanto riguarda appunto il rapporto tra le varie crisi, quella greca e quella delle borse europee e delle borse americane e asiatiche, ma soprattutto quella della borsa cinese, il commento di Alessandro Platerotti, uno dei vice direttori del Sole 24 Ore: il risveglio della politica è l'inizio della cura. Per quanto riguarda invece uno degli anniversari più tristi della recente storia europea, quello del massacro di Srebrenica, sono passati 20 anni da quel massacro in cui morirono 8.000 bosniaci massacrati da alcuni generali serbi e sotto gli occhi impotenti, o forse qualcuno dice indifferenti, dei caschi blu dell'ONU. Poi sapete, seguì l'intervento della NATO, però quella è una macchia davvero sulla storia recente dell'Europa. Il commento di Alberto Negri: Srebrenica, luogo del rancore e dell'ipocrisia europea. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, in edicola Plus, che è il settimanale dedicato al risparmio, alla finanza, la copertina dedicata alle banche frenate. Ci sono, la sapete, nuove regole, Basilea 2, poi è arrivato Basilea 3, e ci spiega il Plus, nuovi obblighi di patrimonializzazione e anche tutti i riflessi della crisi greca e della crisi cinese, aggregazioni lente, il secondo semestre non si annuncia brillante. Il Corriere della Sera, che ieri non era in edicola per uno sciopero, oggi è tornato in edicola, anche qui titolo dedicato alla Grecia: spiragli per Tsipras, accordo vicino. E anche in questo caso la fotonotizia è dedicata all'orrore di Srebrenica e le nostre colpe, questo è il titolo dell'articolo di Donatella Di Cesare. E poi anche, e lo trovate poi all'interno, una pagina interna dedicata al caso Roma, un lungo articolo di Aldo Cazzullo, l'ultima occasione di Marino. Vi leggo le prime righe, poi continua a pagina 28. La capitale d'Italia sta diventando un caso internazionale di incuria e degrado. La morte di un bambino in una metropolitana da anni a livelli medio orientali, ulteriormente peggiorati da giornate di sciopero a singhiozzo, ne è soltanto l'ultimo gravissimo segno. Riferimento naturalmente al fatto di cronaca di cui abbiamo sentito anche nel GR. La Repubblica: UE e Grecia, vince Tsipras. Questa è un po' l'interpretazione di Repubblica. Sapete che ieri c'è stato anche un voto in Parlamento, dove forse anche qui sta il titolo di Repubblica, una vittoria di Tsipras, perché nel voto in Parlamento il suo partito, Siriza, si è un po' spaccato, però alla fine c'è stato un sì, tanto che il commento dell'articolo di Ettore Livini e Matteo Pucciarelli inviati ad Atene si intitola proprio "L'ultimo tormento del popolo di Siriza", che sapete è il partito appunto di Alexis Tsipras. C'è poi un accenno al fatto che in Parlamento non ci fosse Varoufakis, l'ex ministro delle finanze, che domenica, dopo l'esito del referendum, si è dimesso dicendo voglio facilitare con le mie dimissioni la trattativa. Ieri però appunto in Parlamento non è andato e ha presentato la sua giustificazione dicendo "per ragioni personali". E poi c'è stata anche una protesta in piazza, soprattutto la Repubblica la definisce la protesta dei no, perché non tutti coloro che hanno votato no, che sapete sono circa più del 60% di chi ha votato al referendum, c'è comunque, come ricordo sempre, un 40% che invece ha votato sì. Comunque, secondo Repubblica, appunto, chi ha votato no non è convinto di questa svolta nei negoziati. Anche per Repubblica la fotonotizia è Srebrenica 1995-2015 e nella città bosnia, che è andato Adriano Sofri a incontrare la gente e ci racconta appunto 20 anni dopo quel massacro quali sono alcuni dei sentimenti, delle reazioni che ha raccolto. Il Messaggero: Grecia, l'accordo si avvicina, anche qui moltissimi gli accordi, i commenti. La fotonotizia però è dedicata alla tragedia appunto nella metropolitana di Roma, con la foto di tutti i fiori che sono stati deposti davanti a quella stazione dove ha perso la vita un bambino di 4 anni. Anche in questo caso un approfondimento su quello che sta succedendo sempre nella giunta di Roma, perché ieri si è dimesso il braccio destro di Marino, Stella, braccio destro del sindaco, e quindi il titolo: Marino perde i pezzi, nuove accuse nella relazione. La relazione è quella del prefetto, che appunto ha mostrato come in realtà forse ci siano state veramente degli omessi controlli, colpevoli o non colpevoli, su quello che succedeva nella capitale da parte naturalmente del sindaco. Poi la magistratura è andata avanti, il prefetto è andato avanti, però in questa ultima relazione che è stata pubblicata sembrerebbe appunto dimostrare che se non ci fosse stato un decisissimo intervento della magistratura, forse Marino, tra virgolette, non si sarebbe accorto di tutto quello che succedeva dietro le quinte, cioè la corruzione, tutto il malaffare che c'era soprattutto dietro al business dell'immigrazione e delle cooperative, le famose cooperative di Buzzi. Anche La Stampa titola sulla Grecia, in un certo senso in un doppio modo, perché il titolo principale è: proposte di Atene esaurienti, tra virgolette, perché questa è la reazione dell'Unione Europea, accordo vicino, le borse risalgono. E poi c'è questa iniziativa lanciata dalla Stampa, un hashtag, quindi cancelletto Grecia per me, dove la Stampa ha invitato tutti i suoi lettori a mandare delle fotografie che in qualche modo rappresentino i sentimenti dei lettori verso la Grecia. E allora il riassunto è: Grecia per me è arte, mare e uso, il famoso liquore fortissimo che chi è stato in Grecia non ha potuto non provare. La prima pagina dell'Avvenire, anche in questo caso dedicata alla Grecia, una cura in salsa francese, perché il premier Hollande sembrerebbe il grande sponsor di questo nuovo piano. E poi naturalmente approfondimenti sul viaggio in Sud America del Papa, che sta per concludersi. Ieri è andato a visitare, ha lasciato la Bolivia per il Paraguay, l'ultima tappa di questo viaggio, il più lungo che il Papa ha fatto finora, e poi in Bolivia ha visitato un carcere. Il Papa abbraccia i carcerati, non siano esclusi. E poi un altro titolo che ci ricorda la vicenda delle vicende dell'immigrazione, che purtroppo spesso ci finiamo col seguire a giorni alterni, a giorni intermittenti, mentre naturalmente il flusso di migranti non si ferma. E titola il Messaggero in prima pagina, l'Avvenire in prima pagina: strage di migranti in mare, in 6 mesi 1900 annegati. Sono ancora di recente recentissime decine di vittime in un naufragio, e anche la Grecia tra l'altro è al collasso per gli sbarchi, perché molti sbarcano qui da noi, ma molti sbarcano anche in Grecia. L'Unità, ve la segnalo perché sapete che è tornata in edicola da poco, dal 30 giugno per la precisione. La fotonotizia è dedicata ai fori imperiali, che sapete sono una zona di Roma pedonalizzata vicino al Colosseo. Il sindaco Marino ha ordinato che venissero rimossi tutti quei camion bar, e ora appunto questa zona è sgombra, ci sono solo i turisti con le loro tante macchine fotografiche. Questo è quello che si vede dalla foto. Il titolo però è: cresce l'industria, la ripresa c'è. È a quel dato che vi accennavo, c'è anche sul Sole 24 Ore, con appunto il dato di ieri, che cioè il dato più alto dal 2011, una produzione che segna più 3%. E poi vi segnalo un titolo che fa un po' sorridere: caro segretario, ti scrivo oggi in esclusiva, Matteo Renzi risponde alle domande dei lettori dell'Unità. Ora che il segretario del PD risponde in esclusiva sul giornale del suo partito, beh, direi che non è una gran notiziona. Comunque l'Unità la mette in prima pagina, e chissà che qualche lettore incuriosito compri per aver visto l'Unità, per aver visto questo strillo di Renzi che risponde ai lettori dell'Unità. Il giornale napolitano ricattato, e qui il riferimento a quelle intercettazioni che sono uscite ieri e che tante polemiche hanno suscitato, le intercettazioni tra Renzi quando ancora non era premier ma segretario del partito, quindi prima che sostituisse Enrico Letta, e il riferimento a questo titolo napolitano ricattato è che una delle frasi di Renzi è: il presidente è sotto scacco, c'è la morte col cavaliere. E naturalmente ricomincia un po' la anche giusta discussione sull'opportunità di pubblicare intercettazioni di conversazioni private di persone non indagate. Libero, le pensioni del futuro, questa è un'inchiesta che Libero, un titolo quindi diverso da tutti gli altri giornali, è un'inchiesta di Libero che ha fatto le simulazioni di quanto percepiranno i lavoratori, anche quelli coi contributi a singhiozzo. Cifre da brivido, ma l'INPS non li informa. Boeri preferisce litigare con i sindacati. Sapete che ieri c'è stata una polemica, e anche l'altro ieri, molto dura tra Tito Boeri, presidente dell'INPS, e in particolare la Camusso della CGIL. Secondo Boeri non sono vere le stime della CGIL sulle future pensioni. Il Fatto Quotidiano, che è quello che ha pubblicato le intercettazioni di cui parlavamo prima, Letta, Renzi che squallore, è peggio di House of Cards, perché una delle frasi dette da Renzi è: Letta è un incapace, lo sostituirò presto, Letta è una brava persona ma è un incapace. E quindi ieri Renzi non ha commentato l'uscita delle intercettazioni, ha commentato invece Letta dicendo appunto che squallore. Ci lasciamo però un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutte le pagine dei quotidiani italiani con il titolo principale dedicato alla Grecia, questo accordo che pare veramente vicino. Mancavano solo il Manifesto, che ha una fotonotizia con sullo sfondo il Palazzo del Parlamento, il titolo è Pathos e la foto è quella delle persone in piazza che sventolano delle bandiere greche, anche se, come sapete, c'è anche questa, come abbiamo detto, come abbiamo spiegato, c'è questa spaccatura un po' all'interno di Siriza, al partito del Premier. Non è sicuro che poi ne esca unito il partito dopo il voto, perché c'è una parte che non è d'accordo con l'accordo che il Premier sta negoziando con l'Unione Europea. Anche la Gazzetta dello Sport ve la segnalo, perché naturalmente la maggior parte degli articoli sono dedicati al calciomercato, e quindi il titolo principale: il Milan vibra, V-Ibra con V nera e Ibra in rosso, perché sapete che c'è questa trattativa in corso tra il Milan e Ibrahimovic, che è attualmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Il prezzo sarebbe di 5,5 milioni e vedremo, insomma, una delle tante appunto telenovele dell'estate intorno al calciomercato. Ma vediamo le pagine interne dei giornali. Vi segnalo dal Corriere della Sera un approfondimento su una corsa, un'elezione che si terrà nel 2016, che è sicuramente importante, che è quella del sindaco di Milano. Sapete che Pisapia, l'attuale sindaco, ha detto più e più volte che non vuole ricandidarsi, però Maria Teresa Meli in questo retroscena spiega la mossa del PD a Milano per convincere Pisapia. I candidati infatti che ci sono finora non sarebbero convincenti, non darebbero la certezza di conservare la poltrona di sindaco per il centro-sinistra, e soprattutto cominciano a farsi avanti anche dei candidati di peso per il centro-destra, tra cui per esempio Corrado Passera, leader di quel partito Italia Unica che è nato dopo la fine del governo Letta. Dal pagina interna del Sole 24 Ore vi segnalo un focus di 4 pagine, la Cina in Italia, che parte un po' dalla presenza della Cina all'Expo, con un articolo, un intervento dell'ambasciatore cinese in Italia, Li Ruiyo, che spiega l'Expo 2015, volano della Cina in Italia. Sapete che sono sempre di più le imprese cinesi che investono in Italia, questa settimana hanno comprato anche azioni di importanti banche, e speriamo siano anche sempre di più le aziende italiane che riescono a stabilire dei rapporti commerciali con la Cina. E questo sarebbe appunto una delle funzioni che Expo sta avendo, dove la Cina è molto presente. Vi segnalo da pagina U16 un'intervista di Sara Monaci a Benedetta Rese Lucini, che è l'amministratore delegato di Uber in Italia. Aspetta, Uber è appena stata sconfitta, dichiarata illegale questa applicazione, quindi anche la società che c'è dietro, fatta di persone e appunto di un amministratore delegato, che rivoluziona un po' il trasporto pubblico e si sostituisce in parte ai taxi. E Benedetta Rese Lucini, all'indomani di questa sconfitta in tribunale, dice: l'Italia va svecchiata, solo così può crescere, c'è una paura del nuovo, la sentenza contro Uber Pop è legata al vuoto normativo, però i giudici sono comunque conservatori. Vi segnalo dalle pagine di Repubblica un approfondimento su un'altra su un'altra questione molto importante internazionale, di quelle che però appunto vengono seguite un po' a intermittenza, ed è l'accordo sul nucleare tra gli Stati Uniti e Teheran, e in generale l'Occidente e Teheran, e tutte le sanzioni che sono state applicate finora, sanzioni economiche all'Iran, perché non faceva passi indietro sul suo programma nucleare. Sapete che c'era stato un primo accordo, le trattative dovevano concludersi il 30 giugno, ora sono state prolungate perché non è stato raggiunto un accordo. E allora dagli Stati Uniti Daniele Mastrogiacomo ci racconta: mai così vicini all'accordo, trattative ad alta tensione, esteso fino a lunedì il congelamento delle sanzioni, perché le sanzioni per ora non sono annullate ma congelate in attesa appunto di risolvere tutti i nodi irrisolti, tant'è che la Casa Bianca ha detto ci sono ancora motivi di scontro, ma Putin, che partecipa alle trattative, ha risposto l'intesa ci sarà. Dalle pagine interne di Repubblica, anche il supplemento del sabato Repubblica Club, che è dedicato la copertina è dedicata a Francesco De Gregori, che così un po' sicuramente con molta autoironia dice: sono superficiale, ero e resto un dilettante di talento, vivo bene senza passioni. E poi all'interno tantissimi altri approfondimenti anche veramente leggeri, anche di moda e di costume. Al sabato forse abbiamo, come alla domenica, abbiamo tutti un pochino più di tempo per leggere, quindi perché no, si può anche passare da argomenti serissimi a argomenti un pochino più leggeri. Dalle pagine interne del Messaggero, un'altra vicenda che per ora stiamo tutti un po' seguendo così a intermittenza, ma che presto seguiremo con molta più costanza, che è quella delle prossime elezioni in America, le elezioni presidenziali. Sapete che si stanno facendo avanti tutti i candidati del Partito Democratico e del Partito Repubblicano, ci saranno poi le primarie di entrambi i partiti. Hillary Clinton è sempre più attiva, ha fatto un primo discorso 2 settimane fa, ma adesso ne tiene molti altri, anche interventi in televisione, e quindi il Messaggero: la svolta di Hillary stoppa le armi facili, la Clinton decide di sfidare la lobby dell'NRA, la National Rifle Association, che è la società che raggruppa la maggior parte dei costruttori di armi, sarà uno dei temi principali su cui punterà in campagna elettorale. Sapete che è stato anche un tema su cui ha cercato di fare dei progressi anche Obama, ma finora non ci è riuscito. Poi però i fatti di cronaca spingono a riparlare di questo tema. Il più recente naturalmente è del ragazzo giovanissimo che ha fatto quella strage in quella chiesa del sud degli Stati Uniti. Da Macro, il supplemento del Messaggero dedicato alla cultura, un bel approfondimento sull'Ecuador, il paese che il Papa ha appunto appena visitato. Il titolo: il futuro è in fiore, perché questo paese molto amato da Darwin, Charles Darwin, il teorico della selezione naturale, è una culla di biodiversità tra vulcani in alta quota e foreste pluviali, una repubblica che grazie al clima unico è leader nella produzione di banane e ora anche tra le prime al mondo nella coltivazione delle rose, una cosa che io per esempio non sapevo. Pensate che tutte quelle acquistate negli Stati Uniti per San Valentino provengono dalle serre sul Pacifico. Dalla Stampa, un approfondimento sulla RAI che verrà, perché è un'altra delle riforme sul tavolo del governo. Viale Mazzini cambierà volto, ma il controllo resta al Parlamento. Qui c'è un po' un riassunto di tutto quello che potrebbero essere appunto i cambiamenti alla RAI. Vedremo se appunto ci sarà questa riforma già prima dell'estate oppure se si rimanderà dopo le vacanze. La Stampa, come ogni sabato, è in edicola con un supplemento dedicato ai libri. La copertina in particolare è dedicata il titolo è 100 delitti per una reliquia. Il secondo capitolo di questa saga bestseller si intitola L'abbazia appunto dei 100 delitti, di Marcello Simoni, che ha ambientato questo romanzo in un'abbazia, ha avuto molto successo: duelli di spada, intrighi, pergamene preziose nell'abbazia di Pomposa. Marcello Simoni racconta a Tutto Libri come nasce il suo medioevo fantastico, e appunto, visto che vanno sempre molto bene negli ultimi anni tutte le saghe fantastiche, questo appunto è il medioevo fantastico, per non parlare appunto poi di tutto quello che c'è anche in televisione con i serial TV sempre di ambientazione fantasy o fantastica, che anche quelli sembrano avere molto successo. Dalle pagine interne dell'Avvenire, visto che parliamo tanto di debito greco, ecco un bellissimo articolo di Giulio Albanese che ci racconta i debiti dell'Africa, il debito che soffoca l'Africa e annuncia nuove schiavitù. Nelle ricette anticrisi ci sono i rischi di colonialismo e migrazioni. Gli investimenti, ci spiega in questo articolo a pagina 3 dell'Avvenire, non riescono a generare ricavi sufficienti a mantenere fede agli impegni con i creditori internazionali. Tra qualche anno gli africani non saranno più padroni dell'acqua che bevono, del pane che mangiano e dell'aria che respirano. E poi un'altra questione che ci siamo un po' tutti dimenticati, tranne l'Avvenire, non è la prima volta che cerca di tenerci aggiornati su quello che succede. Ecco, Ebola, che abbiamo tutti proclamato, debellato e archiviato le nostre paure per questo virus, in realtà, ci spiega l'Avvenire, Ebola spaventa ancora, perché in Liberia si sono registrati altri casi. Il paese era stato dichiarato libero dal virus, ma probabilmente così non è, e quindi i paesi africani in generale hanno chiesto alle Nazioni Unite altri 3 miliardi per superare definitivamente questa crisi. Onore al merito anche al giornale, che torna sulla questione del tornado che ha colpito il Veneto, facendo una primissima stima a decine di milioni di danni, però oggi non ne parla nessuno tranne appunto il giornale, che lo definisce un po' polemicamente forse dramma di serie B. Il Veneto devastato non merita mai la solidarietà di nessuno, e ci ricorda case distrutte, 500 sfollati, 55 milioni di danni, arte a pezzi, ma aiuti e attenzione zero, perché i veneti hanno un difetto: non si lamentano e fanno tutto da soli. Dicevamo di argomenti un pochino più leggeri, le pagine di Stile all'interno del giornale, Daniela Fedi, che è la storica fashion critic del giornale: cari uomini, vi spiego la borsa, perché sapete che uno dei trend un po' che si registra da qualche anno è che anche gli uomini utilizzano sempre di più borse che forse fino a poco tempo fa sembravano di forma e grandezza tipicamente femminile, ma avere una grande borsa ha i suoi vantaggi, e quindi qui anche gli stilisti che ne fanno sempre di più proprio per gli uomini, poi magari le comprano le donne. Da Libero vi segnalo l'approfondimento, lo trovate anche sugli altri giornali, ma qui la tabella è la più chiara di tutte, che spiega come il flop del 2 per 1000 ai partiti. Gli italiani si vendicano: niente soldi ai partiti. Solo lo 0,04% dei contribuenti ha finanziato la politica, e l'incasso quindi è stato misero, 325.000 euro da dividere in 11 partiti. Dal Fatto Quotidiano un approfondimento sulla Libia, che sapete viene spesso indicata come non soltanto il paese da cui partono la maggior parte dei barconi di immigrati, ma anche un paese che in questo momento è culla di estremismi e di terrorismo. E quindi Nancy Porsia, appunto dalla Libia, ci racconta: Libia, il vicino scomodo che esporta al terrorismo. Il Manifesto oggi è in edicola con Alias, e in particolare c'è una conversazione con Amos Gitai, il cui bellissimo libro Una storia d'amore e ombra sarà presto sul grande schermo con un film di cui è protagonista Natalie Portman, quindi questa conversazione. E dalla Gazzetta dello Sport, ultima segnalazione, un bellissimo reportage da Londra su una partita, la semifinale di ieri tra Andy Murray e Roger Federer, vinta da Roger Federer, che domani sarà in finale. Super Federer, Murray applaude, inchiniamoci a sua maestà. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.